linguaggio a cui, violento a cui siamo abituati, ci fa credere all'esistenza del mio problema, del tuo problema. Nella visione non duale, che sta dietro il metamodello 2, ogni problema personale è in realtà un problema universale, che abbiamo occasione di affrontare e risolvere per il bene di tutti. Così hanno fatto Erickson, così ha fatto Feldenkrais. L'intenzione di bene universale è energia divina. Dice Rosenberg che gli studi fatti dagli antropologi dimostrano che non c'è maggior piacere delle persone che poter contribuire, dare il proprio contributo, donare la propria energia per il bene di tutti. Le danze distruttive annebbiano la vista, ci fanno diventare persone con occhi che non vedono più o che non vedono ancora. L'intenzione di bene universale porta a considerare la soluzione del problema personale come un contributo da dare a un problema più ampio. Ad esempio, c'è un problema che ci accomuna a tutti, quello della piccola mente. Ci sono svariati tipi di piccole menti, ma la piccola mente, rispetto alla grande mente, è in sé l'origine di ogni problema. Allora, cominciare a fare la pratica del metamodello 2 significa che in ogni momento mi rendo conto se sto praticando la piccola mente e sto generando semi di infelicità nel mondo, oppure se sto praticando la grande mente e sto generando semi di felicità per me e per il mondo. Imparare a vedere i problemi personali come casi particolari di un problema universale. Non solo, ma vale anche il contrario. Vedere problemi politici, economici, collettivi come estensione di problemi personali. Ecco, a pagina 7 qui vediamo problemi personali, problemi collettivi, problemi universali. Tendono a essere visti attraverso gli occhi di discipline diverse, la psicologia, le scienze, l'economia politica, la religione, la filosofia. Ecco, il metamodello 2 opta per promuovere una mente yogica, una grande mente, in modo che, anziché le discipline separate come oggi tendiamo a essere allenati a fare, cominciamo a praticare lo yoga delle discipline, lo yoga delle idee, lo yoga dei problemi. Finché non si passa dalla piccola alla grande mente, la vita è difficile e dolorosa. E questa è la prima delle quattro nobili verità del buddismo. Per risolvere un problema collettivo occorre seminare nuovi presupposti che vanno alle radici dei problemi. Le radici sono la parte della pianta che non si vede, ma che ne determina la sua salute e il suo futuro. In questo modo si diventa promotori di una nuova cultura. Una cultura che è nuova e nello stesso tempo antica, perché c'è sempre stata. Probabilmente il 95% della storia umana è fatta da storie di piccole menti, solo il 5% è fatta da storie di grandi menti. Cambiare se stessi e il mondo significa dare il proprio contributo, passando dalla propria piccola mente alla propria grande mente e promuovendo questo tipo di cultura. Oggi, che ce n'è un bisogno veramente grande.